Che cosa posso fare per fermare l'universo? Che cosa posso dire per volare via nel vento? Aggiusto l'orologio e mi preparo al gioco, ma prima di iniziare lento conto fino a 100. Giorno ancora peggio, io vivo all'incontrario. Per...